lascerò le scarpe, partirò, lo zaino in spalla che mi aiuterà a resistere. Io che cosa farò? stesso quando parli lo stato terrestre. Chilometri e chilometri di terre recitate, non posso fare l'orto che mi prendo la manga nel latte. Abito in zona proprio in mezzo alla vallata, fuori da casa vostra questa zona è prenotata. Ma con il treno ad alta velocità, che poi sarebbe un progetto basato su dati di 20 anni fa. 10 o 30 miliardi di euro mi sembra una cifra modica per i loro guadagni, con questa pena preso il culo storica. Vedi Balbe, dare con il sicuro economica, concorrenza, lavoro, integrazione, dimezzare i tempi di percorrenza per viaggi di merci e persone. Oh yeah, it's very credible.